Ci siamo conosciuti di recente, ci siamo studiati, presumibilmente abbiamo entrambi deciso che perlomeno non ci saremmo dati fastidio l'uno con l'altro. Lavoro vero e proprio in comune non se ne doveva fare, ma siccome si opera in segmenti paralleli della medesima struttura, ci si incontra anche spesso, no? Ci si incontra per esempio a pranzo o a cena. Ovvio che se non altro per buona educazione ci si sieda allo stesso tavolo e si parli del più e del meno, protraendo a volte, diciamo così, il piacere della convivialità. Ecco, è soltanto nei giorni scorsi, tuttavia, che mi sono accorto della stima crescente del mio interlocutore nei miei riguardi. L'ho incontrato nei corridoi mentre veniva avanti insieme ad un tizio per me sconosciuto. Incrociandomi si è fermato e ha dato inizio a tutto quel rituale semiologico che costituisce le cosiddette presentazioni, no? Piazzandosi un poco di traverso, sorridendo affabilmente, ha pronunciato i nomi dell'uno e dell'altro, cui ha fatto seguito ovviamente la tradizionale stretta di mano. Ho ricambiato la franchezza di sguardi, ho mormorato qualche fonema di accondiscendenza benevola e prima che potessi svignarmela sono stato condito di una benemerenza che mai prima d'ora avevo ricevuto. È anche una buona forchetta. Fatto è. Ecco che l'opinione espressa in un frammento dei commediografi attici raccolti da Koch, opinione secondo la quale il ventre zeppo non produrrebbe una fine intelligenza, ecco, questa opinione in qualche modo per certi versi sembrerebbe ideologicamente invecchiata. Canetti, Elias Canetti, dove in Massa e potere si sofferma sulla psicologia del mangiare, sostiene che tutto ciò che viene mangiato è oggetto di potere. Da ciò proverrebbe quel riconoscimento di capo che in alcuni gruppi umani ancora oggi, quando pur vigono gli stili alimentari conseguenti alla rappresentazione scientifica del molecolare, beh, è dato questo riconoscimento ancora oggi al gran mangiatore, no? I subalterni, insomma, farebbero affidamento sulla pancia piena di uno di loro come premessa e garanzia per riempire in un momento di là da venire la pancia propria, che intanto rimane vuota di cibo ma piena di nutrientissimi simboli. Non è un caso quindi che potere e gozzoviglia si siano spesso espressi correlativamente. In alcune società, dice ancora Canetti, è persino previsto lo sperpero rituale come viatico alla conferma dei rapporti gerarchici. È il caso del potlatch, degli indiani dell'America nord-occidentale. Potlatch sarebbe un raduno di capi che culmina in una gara di distruzione dei propri beni e alla fine ci si vanta della somma e chi ha sprecato di più si vede rinnovata la sudditanza altrui. È un'attività in cui si esercitano quotidianamente peraltro anche i nostri capi, tuttavia, ecco, sia detto a onor del vero, si differenziano pur sempre dagli indiani del nord occidentale, dell'America nord occidentale, perché si guardano bene loro dallo sprecare i loro di beni, si accontentano per lo più di sprecare i nostri. Che quel mio interlocutore, ecco, quello che ha detto che sono anche una buona forchetta, abbia stima per me, mi è stato ribadito in altra forma l'altro ieri sera. Lo incontro mentre sto andando a cena, no? E lo invito ad accompagnarmi. Mi dice che stava giusto venendo in mensa, ma al solo scopo di non lasciarmi solo. Lui purtroppo era impegnato per cena più tardi con altri. Nel frattempo non mi avrebbe fatto mancare il piacere della sua compagnia e della sua conversazione. Già San Gerolamo, in proposito, la sapeva lunga. E in una lettera al nipote dell'amico Eliodoro, tal Nepoziano, infatti gli raccomanda di non sedersi a mensa con le persone di mondo e specialmente con quelle che si gonfiano di orgoglio per le cariche ottenute. Gerolamo intuisce che fra il mangiare e il potere c'è un nesso profondo. L'etichetta odierna prescrive che si mangi coprendosi la bocca, nota ancora Canetti, e questo è il segnale inequivocabile di quanto sia propizio il momento del pranzo collettivo per mostrare i denti all'altro, che poi questi denti oggi si metaforizzino in battutine a danno di qualche commensale debole, in barzellette, in aneddoti edificanti o addirittura nella qualità delle ordinazioni o nell'ordine con cui si è serviti dall'astuto cameriere, per questo poco importa. I mezzi per imporre e per perpetuare la gerarchia sono tanti e possono variare a seconda delle circostanze. Ciò che conta, ciò che ha davvero peso sociale, spiega infine Canetti, è che chi mangia da solo rinuncia al prestigio che potrebbe ottenere mangiando in compagnia, fino al punto che in caso di omaggio, in caso di manifesta volontà di sottomissione, qualcuno, come il mio gentile interlocutore, gentile forse fin troppo, qualcuno può decidere di partecipare del pranzo altrui senza toccar cibo. C'è stato il tempo in cui, vuoi per lavoro, vuoi per amicizia, consumavo periodici lauti e lauti pranzi in terra di Toscana con un noto allenatore di calcio e con il suo fido secondo. Imparai ben presto che dovevo stare alla larga dalla bistecca alla Fiorentina. Non che all'epoca potessi già sospettare di quei prioni in agguato che si sono resi noti anzi soltanto nel 1984, allorché Stanley Prusiner, nell'indifferenza più generale, pubblicò il suo articolo sul numero 196 delle Scienze, 1984. No, ma ecco, dovevo stare alla larga della bistecca alla Fiorentina per tutt'altro ordine di motivi. L'allenatore in questione, infatti, ordinava sistematicamente una Fiorentina per due, cioè per lui e per il suo allenatore in seconda. E ecco, se mi fossi aggregato alla scelta, avrei rischiato di minare alla base l'implicito ordine costituito delle cose. Anche, ben inteso, se al posto di una Fiorentina per due avessimo ordinato una Fiorentina per tre, non ho mai avuto l'occasione di verificarlo, ma presumibilmente le cose sarebbero andate alla stessa maniera anche se avessimo ordinato una Fiorentina per 12. Allora, arrivava in tavola, fumante, sfrigolante in tutto il suo spessore, e il cameriere poneva al più famoso, al più noto, al volto più notorio, la consueta domanda. Gliela preparo io? Lui rispondeva: no, dia qua. Prendeva il coltellaccio d'ordinanza per bistecchi alla Fiorentina e con due tagli bene assestati portava via l'intero filetto, se lo metteva nel piatto, nel proprio piatto, e lasciava il resto al suo rassegnato secondo. Neppure una volta si sentì mai in dovere di giustificarsi. Quando si esercita il potere nel tacito consenso del suddito, non c'è più alcun bisogno di mostrare i denti. L'inermità di chi mangia da solo è un dato che concerne la sola dimensione pubblica. Chi mangia da solo in privato, diciamo che può invece ottenere risultati trionfali a certe condizioni. Riferisce Lena Pepitone, la governante newyorkese di Marilyn Monroe, riferisce che l'infelicissima attrice amava mangiare a letto, nuda, le bracciole di vitella accompagnandole con champagne. Mangiava con le mani, che si puliva poi con le lenzuola di seta, su cui peraltro abbandonava anche gli avanzi. Le lenzuola non le lavava lei, gli avanzi non li raccattava lei, le bracciole non le comprava lei e neppure se le cuoceva. Lo doveva fare per lei qualcuno che presumibilmente non era bella come lei, non amata come lei, non ricca come lei, e verrebbe da dire neppure infelicissima come lei. Qualcuna comunque che, seppur infelicissima, era infelicissima per tutt'altre ragioni, magari per le ragioni che l'obbligavano a fare per l'appunto ciò che Marilyn non faceva. I don't do much talking. Say you're happy and you're doing fine.